te se messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? So mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa! E bentornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM e cominciamo con la trasmissione odierna di Impatto partendo dalla scaletta che oggi sarà un po' monotematica visto gli avvenimenti della settimana passata e quindi insomma dobbiamo prenderci un po' di tempo e parlare di quello che è successo questa settimana e dei risvolti che le vicende e le inchieste che si sono aperte questa settimana hanno sul sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti e le conseguenze insomma che le popolazioni di questi territori continuano a patire proprio per le politiche portate avanti sull'argomento e quindi insomma lunga carrellata sulla questione rifiuti e poi in chiusura un aggiornamento per quello che riguarda la questione decreto salva Ilva terra dei fuochi perché i due argomenti sono stati accorpati e insomma il decreto domani dovrebbe essere in discussione per la conversione in legge e quindi insomma ci risentiamo tra un minuto. Feel the funk, y'all. Let it flow. Ebbene, insomma, andiamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa per cominciare questa nuova puntata di Impatto. E, insomma, l'argomento del giorno è sicuramente la svolta nella lunga inchiesta che vede coinvolto tutto il Gotha regionale ed imprenditoriale sulla vicenda dello smaltimento dei rifiuti. Inchiesta molto lunga che parte da molto lontano che si è concretizzata con alcuni arresti lo scorso giovedì 9 gennaio. Però diciamo subito che la parte finale dell'anno e l'anno nuovo proprio sull'argomento smaltimento dei rifiuti soprattutto per quello che riguarda il Comune di Roma e la Giunta Marino non era stato proprio molto tenero. C'erano stati grossi problemi per tutto il periodo delle festività natalizie soprattutto nella raccolta dei rifiuti in svariati quartieri di Roma con le conseguenti polemiche e insomma ha fatto molto scalpore e ha girato molto sui mezzi di comunicazione la foto dei maiali che grufolavano allegramente in mezzo a sacchi di monnezza lasciati lì da giorni che avevano formato vere e proprie montagnole dalle quali questi maiali si cibavano e quindi insomma le feste natalizie avevano portato grosse polemiche proprio sulla gestione e la dirigenza dell'AMA responsabile di tutti questi disservizi nella raccolta dei rifiuti nella città di Roma. Di servizi che poi riguardavano anche alcuni aspetti delle raccolte differenziate dislocate in maniera poco uniforme sul territorio di alcuni municipi ed è continuata poi con un guasto che ha messo a rischio la tenuta del comune di Roma, cioè un guasto all'impianto di trattamento dei rifiuti di Rocca Cencia, guasto che è stato riparato nel giro di 2 giorni, ma insomma l'AMA ha segnalato il problema che se un guasto all'impianto di Rocca Cencia dovesse prolungarsi per più di 4-5 giorni i problemi per la città di Roma si comincerebbero subito a vedere, e quindi insomma un chiaro segnale dei problemi che ci sono dentro l'AMA, problemi relativi alla gestione della raccolta dei rifiuti e di conseguenza anche nello smaltimento, perché insomma il ciclo dei rifiuti è un ciclo integrato e se si fa un cattivo lavoro a monte durante la raccolta non si può sperare di fare un buon lavoro poi a valle quando ci sono gli sversamenti in discarica. Però tant'è, l'AMA cioè in corso il sindaco Marino, indignato per la pessima figura della gestione dell'AMA, ha promesso un cambio ai vertici dell'azienda, un cambio ai vertici che insomma fa presagire uno scontro di potere per il controllo di un'azienda che è tra le più grandi nel panorama delle aziende del comune di Roma, quella con più dipendenti, quindi con un bacino di voti maggiori, e è quella che è immersa in un argomento dove girano parecchi soldi, appunto quello dello smaltimento dei rifiuti, un servizio indispensabile per le grandi città, indispensabili perché senza di esso in pochissimi giorni potrebbero ritrovarsi in condizioni sanitarie veramente pessime, e quindi insomma è evidente che le amministrazioni sono costrette a comunque a investire all'interno di le aziende di raccolta dei rifiuti, e quindi tant'è che l'anno insomma è cominciato proprio con questi avvenimenti, con queste polemiche. Però insomma poi il giovedì 9 gennaio insomma è uscita la notizia di questi 7 arresti tradotti ai domiciliari e 24 indagati per un'inchiesta che parte da lontano, ormai dal lontano 2008, e che insomma vede da una parte l'impegno dei comitati e dall'altra la magistratura che insomma si è preso un bel po' di tempo e ha portato a termine questa operazione, che però insomma scombussola parecchio anche il panorama istituzionale, perché insomma gran parte dei personaggi coinvolti, soprattutto a livello di dirigenza regionale, sono ed erano, probabilmente lo sono ancora, in carica nella giunta Zingaretti, e questo insomma è un bel problema, perché una giunta che vede gran parte dei suoi funzionari a casetta senza la possibilità di uscire perché il giudice non li fa uscire. Questa inchiesta infatti coinvolge 24 persone, 24 indagati, e per il momento agli arresti domiciliari, oltre a Maglio Cerroni, quindi l'uomo nero dei rifiuti romani, laziali e anche di altre parti del mondo, vede coinvolti Bruno Landi, ex presidente della regione tra l'83 e l'85, l'89 e il 90 ed oggi amministratore di Eco Ambiente, nonché di Latina Ambiente, Francesco Rando, Pietro Giovi, Pino Sicignano, Luca Fecatelli e Raniero De Filippis, questi ultimi due tra l'altro due dirigenti della regione. In più ci sono ancora degli altri indagati sempre nell'amministrazione stessa. E quindi ricordiamo sicuramente sul fatto che tra gli indagati c'è l'ex presidente della regione Lazio Piero Marrazzo, che insomma alcuni anni fa decadde dalla sua carica in maniera vergognosa e insomma continua a portare il peso delle sue scelte del passato. Infatti Piero Marrazzo per il momento è sotto accusa per abuso d'ufficio e falso ideologico rispetto all'emanazione di un'ordinanza del 22 ottobre del 2008 con cui aveva dato la possibilità al COEMA di realizzare l'inceneritore di Albano, e aveva fatto questa emanazione era avvenuta quando non era già più in carica come presidente e quindi non più competente rispetto a questa decisione. Eh sì, insomma Marrazzo non era più commissario straordinario, non poteva emanare quel decreto di pubblica utilità. Da questa semplice constatazione a cascata ne è avvenuto che il Consiglio di Stato dovette sospendere l'erogazione di CIP 6 al consorzio Coema per la costruzione dell'inceneritore di Albano, tant'è che il cantiere, pur essendo autorizzato a livello regionale, e insomma vedremo come era autorizzato, insomma, che fior fiore di tecnici a livello regionale si sono impegnati per raggiungere e avere questa autorizzazione regionale, e che fine hanno fatto, però comunque i soldi necessari alla costruzione dell'impianto, che ce li mettevamo noi attraverso i CIP 6, erano fortunatamente svaniti. E quindi un motivo di, sicuramente di giubilo per le popolazioni che si stanno battendo contro la costruzione dell'inceneritore di Albano, però insomma rimane il fatto che ormai, cioè, si sono voluti almeno 5 anni per constatare il fatto che l'operazione messa su da Marrazzo e Company proprio per costruire l'inceneritore di Albano era una truffa bella e buona. E quindi insomma è evidente pure un po' di soddisfazione rispetto al fatto che parte delle istituzioni hanno dovuto prendere atto che c'era una contraddizione troppo grossa all'interno del loro stesso operato, e sono state costrette a intervenire nei termini, insomma, che abbiamo descritto, insomma 24 indagati, 7 persone agli arresti domiciliari e mi pare almeno una ventina di milioni d'euro di sequestro di beni proventi delle attività illecite che erano state commesse. Io insomma continuerei parlando insomma di quello che è successo e dell'inchiesta, e chiamerei pure Daniele del coordinamento No Inceneritore per avere anche un quadro più puntuale di tutti questi aspetti, e così magari evitiamo anche magari di fare brutte figure, cioè, sbagliando qualche dato. E quindi ci risentiamo tra un minuto in attesa insomma di metterci in collegamento con Albano. It was a cold, gray afternoon. My mission for ambition soon. I raced with cars, with the bike and the train, only to come cold back again. I searched the roof, through pockets, on the bed, in the closet, in the fridge, everywhere, oh everywhere, and over all in it. Then suddenly the stars fell down, and one by one undressed the big blue room. My one way to escape out through the horizontal, vertical, and movements in the metal, a zoo. Spray today. I E bene, di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e come promesso torniamo in onda con un collegamento da Albano Laziale per continuare a parlare dell'inchiesta e dei provvedimenti che sono scattati lo scorso giovedì 9 gennaio e anche per avere un commento, insomma, anche di una situazione generale che magari con questa inchiesta si fa anche un po' più ingarbugliata di prima, se insomma prima fosse poco chiaro, insomma adesso ancora più complicato. E dovremmo avere in collegamento Daniele da Albano. Pronto, ci senti? Sì, ciao Paolo, buonasera a tutti. Ciao Daniele. Niente, prima abbiamo raccontato molto brevemente cosa è successo prima delle vacanze di Natale e poi adesso dopo le vacanze di Natale. Insomma, abbiamo detto che questa inchiesta parte da lontano, e insomma era lontano 2008, mi pare. E niente, parte dall'impegno, insomma, dei comitati che nel corso del tempo, insomma, hanno preso l'impegno di monitorare e far emergere, denunciare tutte le contraddizioni che proprio sull'argomento della raccolta e smaltimento dei rifiuti coinvolgevano e coinvolgono le istituzioni, e proprio istituzioni che, insomma, poi alla fine si è reso palese, si sono rese protagoniste di una quantità di illeciti che, insomma, dopo svariati anni arrivano a questo epilogo, che insomma è poi una prima tappa, diciamo subito, di un'inchiesta che durerà parecchio tempo, che non vuol dire che qualcuno, insomma, verrà punito per quello che ha commesso, ma sicuramente dà il segnale di un indebolimento di alcuni poteri forti che hanno spadroneggiato, possiamo dirlo, insomma, tranquillamente nella regione per più di 30 anni, e un sistema di potere che forse un pochino si è incrinato. Insomma, era evidente, almeno secondo me è stato evidente, come in questi anni proprio il sistema del toto di scarica del post Malagrotta, proprio grazie all'impegno dei comitati, ha permesso un forte rallentamento rispetto all'apertura di una nuova grande discarica, ed era già quello il segnale che probabilmente delle manovre poco chiare a livello istituzionale non era più possibile farle. E questa mi pare una conferma abbastanza forte di questa, insomma, attenzione che i poteri istituzionali hanno da parte della popolazione, e quindi, insomma, io ti chiedo un commento su questo, su quanto è successo, e anche sull'oggi, le conseguenze e le prospettive, perché insomma le partite sono in realtà poi tutte aperte, quelle soprattutto rispetto alle discariche vecchie e nuove che esistono e continueranno a esistere e continueranno ad avere i problemi che abbiamo raccontato tante volte. Quindi non so, Daniele, dove ti senti più di cominciare a parlare, magari, insomma, anche Sì, guarda, io intanto, insomma, è stata una grossa soddisfazione, ho potuto leggere l'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Roma, Massimo Battistini, col quale sostanzialmente sono state arrestate queste sette persone, che sono proprio il gota del sistema criminale, così l'ha definito proprio il GIP, che sostanzialmente teneva sotto scacco tutto il sistema di gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione Lazio, e che ha permesso, almeno al momento, di tenere e mantenere sotto indagine in totale 21 persone. La soddisfazione è grossa, perché questa, diciamo, questo vero e proprio terremoto giudiziario che si è abbattuto su questo sistema criminale parte proprio dal lontano 2008 e soprattutto, insomma, dall'attività di mobilitazione giudiziaria. Quindi abbiamo depositato come comitato Mince circa 35 preesposti e denunce nel corso di questi anni, parte proprio da lì, e non è un caso che in questa ordinanza cautelare del GIP di Roma, che ha comportato appunto questo terremoto giudiziario, due dei quattro piloni principali, quindi due dei piloni di indagine su quattro totali, siano relativi proprio alla discarica di Roncigliano, quindi la discarica ad Albano, che raccoglie i rifiuti dei 10 comuni del bacino dei Castelli Romani, il settimo invaso, di cui abbiamo parlato tante volte, annesso impianto di TMB per la preselezione e il trattamento dei rifiuti indifferenziati in arrivo, e soprattutto inceneritore dei Castelli Romani, insomma il progetto di cui ormai da 6 anni e mezzo parliamo veramente tutti i giorni. E questa è stata quindi una grossa soddisfazione, e mi va di sottolineare proprio in un momento in cui da tante parti, insomma, si accendono le trombe, si dà fiato proprio così alle voci più disparate, mi va di sottolineare che in questa ordinanza del GIP di Roma Massimo Battistini, l'unico comitato in realtà che viene citato nelle circa 450 pagine di ordinanza cautelare è soltanto il comitato No Inch. Il GIP proprio sottolinea come il comitato sia riuscito a focalizzare l'attenzione su elementi che erano sostanzialmente sconosciuti sia agli organi inquirenti sia agli stessi organi della giustizia che stava portando avanti le indagini. Quindi questa è una grossa soddisfazione, nonostante appunto le problematiche diciamo siano molto complesse, non tanto per la questione inceneritore, visto che appunto proprio questo impianto industriale, la possibilità soprattutto che si realizzi e che parte del cantiere, si sono ridotte veramente al lumicino, nonostante sia formalmente ancora autorizzato e formalmente finanziabile con i soldi pubblici, ma comunque possibilità veramente ridotta al lumicino alla luce anche di questa pesantissima insomma azione giudiziaria, ma soprattutto situazione difficile per quanto riguarda la discarica dei Castelli Romani, quindi di Roncigliano e il Settimo Invaso, perché appunto l'alternativa a questo sistema di raccolta indifferenziata dei rifiuti, quindi la raccolta differenziata porta a porta, ancora non è stata avviata nei comuni dei Castelli Romani, tranne rarissime eccezioni, ovvero il comune d'Ariccia, che è 1 su 10, e soprattutto rimane anche il problema della sovraffatturazione. Il GIP parla appunto del sistema criminale d'Albano, che è diventato insomma proprio quasi un modello di riferimento. Ovvero una sovraffatturazione pesante che grava appunto sui cittadini e le cittadine, che grava sulle amministrazioni, parlo di 10 amministrazioni comunali, e nessuno in questi anni si è accorto di queste sovraffatturazioni pesanti, di queste appunto associazioni a delinquere finalizzata sia alla sovraffatturazione sia al traffico illecito dei rifiuti, se ne è accorto solo il comitato non c'è, per fortuna ora se ne sono accorti dopo una serie di indagini molto lunghe e complesse portate avanti appunto dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, dal nucleo ecologico dei carabinieri di Roma e insomma da altri organi inquirenti investiti direttamente dalle procure di Velletri e di Roma. Quindi per fortuna ora non è più il comitato No Inch che sollevava il problema e denunciava il problema, ma insomma cominciano a diventare sia la procura di Velletri che di Roma e anche l'ufficio GIP di Roma, che appunto ha sostanzialmente sottolineato come in questi ultimi anni, in modo particolare fino a agosto 2012, il sistema criminale legato soprattutto alla discarica d'Albano abbia comportato una sovraffatturazione accertata senza ancora il calcolo degli interessi, circa 11 milioni e mezzo di euro. Daniele, insomma, hai fatto bene prima a ricordare anche magari il fatto che a margine di questi intervento della magistratura si sono sollevate parecchie voci che si sono insomma anche prese un po' il merito di questa dell'intervento inevitabile della magistratura su questo argomento. Io insomma ricorderei insomma alcuni di quelli un po' più che insomma a maggior ragione hanno parlato a sproposito, insomma mi riferisco alla ex governatrice della regione Lazio Renata Polverini e al suo grande amico, perché insomma sono grandi amici, lo sanno tutti, l'ex commissario Pecoraro, che proprio in questi giorni sui quotidiani di destra si sono sbrodolati in plausi sul loro operato, che ha tentato in maniera che poi in realtà è stato inutile, ha tentato di bloccare il sistema Cerroni, e proprio per questo sono stati cacciati dalle loro, diciamo, lasciavano intendere che sono stati cacciati dalle loro posizioni proprio perché hanno tentato di stoppare il sistema Cerroni. Non sappiamo, non è chiaro come la Polverini, con il suo piano regionale che era identico a quello della giunta Marrazzo, abbia cercato di bloccare il sistema Cerroni, insomma ha copiato paro paro il piano regionale della giunta Marrazzo, e soprattutto insomma anche il prefetto Pecoraro, quando è stato in carica come come commissario straordinario ai rifiuti, aveva proposto nel folle toto discarica, la discarica di Corcolle a fianco a Villa Adriana, e non mi pare che anche lui brillasse per una scelta ponderata in un luogo, insomma, nello sforzarsi di trovare un luogo idoneo per collocare questa discarica. Poi tra l'altro poi Pecoraro si è reso responsabile, sempre ad Albano Laziale, di una operazione che lo scorso 15 ottobre si è conclusa a luna di notte con le cariche contro la popolazione presente, perché insomma aveva avuto la brillante idea di portare la salma di Pripke ad Albano, cercando in qualche modo di scaricare sulla città di Albano un rifiuto che la città di Roma non voleva sul proprio territorio, e ci ha fatto anche questo altro regalo. E quindi insomma non mi pare proprio una persona titolata a parlare di cercare di fermare il sistema Cerroni, visto che al massimo ha cercato di spalleggiare qualche concorrente di Cerroni nel toto discarica. E quindi questo insomma come dato sicuramente ricordarlo, perché insomma non è che poi appropriarsi di alcuni risultati non da parte di personaggi che non sono proprio insomma si sono comportati come abbiamo raccontato non è proprio insomma sostenibile. Ricordiamo pure che ormai a margine di questa inchiesta anche l'ex commissario ai rifiuti Sottile è finito sotto inchiesta per alcuni, si parla di alcuni favoreggiamenti sempre alle aziende di Cerroni per quanto riguarda la discarica di Pian dell'Olmo. E questa vicenda insomma ha fatto sì che in settimana tutti si aspettavano che Sottile fosse rinominato commissario straordinario dei rifiuti, però ciò non è avvenuto e la sua nomina è stata bloccata temporaneamente, proprio perché insomma ecco, alla luce di quello scandalo e alla luce anche del suo coinvolgimento forse non è proprio la persona ideale per portare a termine il post Malagrotta, che poi è uno dei, mi pare, uno dei quattro filoni di indagine. Due si riferiscono ad Albano e gli altri due, uno a Malagrotta e l'altro è uno proprio alla questione Pian dell'Olmo e l'altro alla questione della rete ambiente, alle tariffazioni dei rifiuti di Anci, Comuni Anci e Nettuno. Ah, ok. E quindi insomma, pure l'inchiesta fa emergere un panorama di interessi intrecciati un po' su tutta la regione, proprio nello smaltimento, cioè si accusano molto spesso i comitati magari di nimbismo, quando poi i propri stessi comitati proprio quando riescono a capire che il sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione è un sistema integrato e si riesce ad attaccarlo in più punti, qualche crepa si riesce a infliggere. Insomma, ci ricordiamo a tutti che il CDR che parte della truffa ad Albano era il CDR che sarebbe dovuto finire a Colleferro, e mentre a Colleferro non si bruciava CDR ma si bruciava ben di peggio, con le conseguenze che tutti sappiamo. E quindi insomma è evidente che il sistema dei rifiuti in questa regione è sempre più un sistema integrato e probabilmente c'è una necessità di una risposta su tutti i fronti, e un passettino questa inchiesta ce lo fa fare, perché comunque sia rende evidente il fatto che questo puzzle un pochino si sta cominciando a formare, e insomma soltanto grazie all'operato dei comitati tutto ciò è stato possibile, perché insomma non più di 10 anni fa il raddoppio della discarica era un'operazione molto serena per chi la doveva portare a termine. Daniele, insomma, hai altro da raccontarci? Sappiamo che abbiamo letto sul sito del Comitato Noince che stamattina c'era una conferenza dei servizi in relazione all'inquinamento delle falde prodotto dalla discarica. Dovevano essere presenti dei personaggi che invece purtroppo non sono potuti intervenire. Beh sì, doveva essere presente il direttore della discarica d'Albano, Giuseppe Sicignano, per conto appunto della Pontina Ambiente, che è la proprietaria della discarica qui appunto proprio ad Albano, del gruppo Cerroni, ma sa gli arresti domiciliari. Doveva essere presente anche l'ingegner Ermolli dell'Arpa Lazio, ma è uno degli indagati e insomma il suo nome emerge per situazioni molto negative sia sulla stampa sia sulla stessa ordinanza cautelare del GIP di Roma, e, insomma, sostanzialmente la Fontina Ambiente pare che abbia chiesto al comune di Albano un rinvio di questa diciamo conferenza dei servizi relativa all'analisi delle acque di falda sottostante alla discarica, che manca da più di 2 anni, cioè una cosa incredibile, e il comune di Albano, anziché procedere diciamo d'imperio e portare avanti insomma finalmente questa caratteristica, ha deciso giustamente di concedere una settimana di slittamento, assolutamente, tanto per capire qual è poi l'atteggiamento delle amministrazioni ancora oggi, quindi è una cosa ancora più grave. Ma diciamo che in generale comunque rispetto alla situazione d'Albano, proprio il direttore siciliano, l'ex amministratore delegato della Pontina Ambiente Rando, ma anche Fegatelli, che è stato per tanti anni a capo dell'area rifiuti della Regione Lazio, comunque il dirigente che per conto della Regione ha gestito le conferenze dei servizi relative appunto al settimo invaso, all'inceneritore, che ha dato il via libera definitivo ad entrambi gli impianti, per queste 3 persone, quindi direttore siciliano della discarica d'Albano, ex amministratore delegato della Pontina Ambiente, quindi proprietario della discarica, Rando, e Fegatelli, era stato richiesto addirittura l'arresto in carcere da parte della procura, che non si sa bene ancora il motivo, il GIP sembra non abbia accettato, e quindi sono anche loro ai domiciliari, ma insomma con capi di imputazione davvero pesantissimi. Questo, come hai detto te, è un punto non d'arrivo, ma un punto di partenza, perché l'unica vera alternativa a questo business tentacolare e mortale è il porta a porta, la riduzione, riciclo e riuso. Mancano in tutto il bacino dei Castelli Romani, e non solo, perché vediamo qual è la situazione a Roma provincia, quindi cercheremo intanto insomma di come comitato Noinci, intanto venerdì prossimo alle 5 avremo una assemblea pubblica presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, che è la sede del comune d'Albano, quindi siete tutti invitati venerdì 17 ore 17 sala consiliare del comune d'Albano, Palazzo Savelli, si trova proprio a Piazza della Costituente nel centro d'Albano, e poi avremo un'altra assemblea pubblica invece il 23 gennaio all'Ok Club di Cancelliera, quindi è un grosso centro sportivo che si trova a via di Pantanelle, proprio nel quartiere diciamo civile più vicino al sito della discarica di Roncigliano, quindi siete tutti invitati a partecipare. Nelle prossime settimane probabilmente riusciremo a portare avanti e a depositare l'azione popolare per chiedere un risarcimento civile anche alla società di Cerroni, ma non solo a questo punto, quindi cercheremo di fare quello che abbiamo fatto fino adesso e che facciamo da 6 anni e mezzo, quindi mobilitazione popolare, controinformazione, azioni giuridiche, cercheremo appunto di far sì che questo primo step non vada vanificato, perché appunto le amministrazioni non danno per niente l'idea di voler imprimere un cambio di rotta reale nella gestione della pubblica amministrazione. Come vi dicevo stamattina, la cosa proprio minima che avrebbe dovuto fare il comune d'Albano dopo più di 2 anni di ritardo, me lo ricordo, l'ottobre 2011, è imporre con la propria autorità giuridica che viene conferita dalla legge la necessità immediata di analisi, e quindi di una caratterizzazione geologica e idrogeologica, quindi analisi approfondite sulla qualità delle acque delle falde sottostanti alla discarica. E invece Cerroni chiede aiuto, chiede appunto lo slittamento della conferenza della conferenza dei servizi, gli è stata concessa ampiamente, quindi ci rivedremo fra una settimana per un'ennesima presa in giro, dopo che appunto da più di 2 anni manca un'analisi che è proprio il livello minimo di consapevolezza della qualità insomma della vita intorno al sito della discarica. Quindi la situazione continua ad essere tanto grave, non sembra appunto che politici e amministratori abbiano capito la portata di questo intervento della magistratura. Confidiamo appunto nel proseguo della nostra attività e speriamo insomma nell'ordinanza del GIP si citano anche altri filoni di inchiesta tuttora in corso, speriamo che si faccia finalmente un po' di polizia rispetto a quello che è avvenuto fino adesso, perché questo sistema criminale e tentacolare veramente ha raggiunto tutti i livelli, insomma è scritto anche sui giornali, non solo nell'ordinanza, amministratori pubblici, diciamo organi di che avrebbero dovuto, sia organi privati e pubblici, che avrebbero dovuto garantire diciamo e preservare tutta una serie di situazioni ambientali come al Palazzo, sono coinvolte appunto il mondo dell'economia, della grande industria, della finanza, il mondo della politica, il mondo anche insomma personaggi strettamente legati anche all'Associazione Nazionale Lega Ambiente, cioè veramente c'è tutto dentro. Sì, guarda, hai fatto bene a ricordarlo, insomma, nell'inchiesta, cioè, è presente anche, insomma, quello che era il GOTA di questa associazione, e dovrebbe, insomma, dare chiaramente il segno di che tipo di associazione stiamo parlando, di quali sono le sue reali finalità rispetto alle questioni ambientali e di salute, e che, insomma, invece sono invischiati con tutte le mani dietro un sistema tra i più squallidi e maleodoranti che ci sono. Ti ringrazio per aver, insomma, anche spiegato un po' le prospettive rispetto a queste amministrazioni comunali che continuano ad avere un atteggiamento di sudditanza, ad essere, insomma, buoni rispetto alle aziende di Maglio Cerroni, anche alla luce di quello che è successo, e sicuramente solo attraverso il continuo della mobilitazione popolare si riuscirà a schiodare questi amministratori da queste posizioni e da, cioè, insomma, cercare un cambio di rotta su questi aspetti. E quindi, insomma, ti ringrazio, e magari ci puoi ripetere gli appuntamenti. Sì, questi sono davvero importanti. Beh, intanto, per gli aggiornamenti potete andare o sul sito internet noinceneritorealbano.it, trovate sempre, insomma, tutte le ultime notizie del caso, sulla pagina Facebook Coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, oppure, insomma, faremo due grosse e importanti assemblee pubbliche, una venerdì prossimo 17 gennaio, quindi fra pochi giorni, alle ore 17 a Piazza della Costituente ad Albano, proprio alla sede del comune, Palazzo Savelli, siete tutti invitati a partecipare, e la prossima, la settimana subito dopo, quindi la prossima settimana, il 23 gennaio presso il centro sportivo OK Club di Cancelliera, che si trova, appunto, proprio nei pressi a ridosso della discarica di Roncigliano. Faremo anche lì una assemblea pubblica in cui, appunto, cercheremo di capire cosa è successo e cosa sta succedendo e quali sono le prospettive, insomma, che sia a livello di mobilitazione sia a livello giudiziario cercheremo di portare avanti per rendere a questo punto, insomma, efficace una battaglia che è arrivata per fortuna comunque a un punto insperato, ma che è solo un punto di partenza. Ecco, adesso serve veramente, insomma, cercare di imprimere una svolta a questo sistema di gestione dei rifiuti, visto che, appunto, non sembra che la politica e gli amministratori abbiano nessuna intenzione di farlo. Ecco, questo penso che sia ancora più importante adesso, insomma, che anche l'aiuto, insomma, un po' così, di questa inchiesta, soprattutto del boom anche mediatico, ha creato una partecipazione, non so, ecco, stamattina sotto al comune eravamo un numero importante per la conferenza dei servizi, che poi, insomma, è stata rinviata. Questa partecipazione che adesso, insomma, segue al grande evento mediatico, forse è giusto incanalarla e indirizzarla verso una pressione che sia proprio specifica per intanto chiudere il sito della discarica di Roncigliano, che va avanti dal 79, appunto, senza nessun tipo di controllo, e dall'altro riuscire, insomma, a determinare poi veramente un cambio di gestione del ciclo dei rifiuti attraverso l'avvio di questa raccolta differenziata porta a porta e anche l'avvio del sistema industriale anche di ricevere un affreddo delle materie prime, che, insomma, manca totalmente e completamente ai Castelli Romani, come, insomma, a Roma e provincia. Allora, Daniele, ti ringraziamo per la corrispondenza, per tutti gli aggiornamenti, e ci risentiamo sicuramente nelle prossime settimane. Un saluto. Grazie a te. Grazie a voi per l'ospitalità. E dai, ciao. Grazie. E allora chiudiamo la corrispondenza e andiamo con un po' di musica. E di nuovo in onda, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. E conclusa la parentesi, insomma, con Daniele del Comitato Lynch, proprio per insomma spiegare un po' degli aspetti dell'inchiesta e del che ha portato a questi arresti lo scorso 9 gennaio. Torniamo invece per parlare di un'iniziativa che si svolgerà questo sabato, sabato 18, nel quadrante di Valle Galeria, proprio per rilanciare le mobilitazioni su quel territorio. Alla luce di alcune considerazioni che sono state fatte dai comitati laziali proprio sul futuro di quell'area, perché insomma proprio da leggendo il documento che è stato pubblicato lo scorso 13 dicembre, proprio nella zona di Valle Galeria, tra inceneritori e impianti a biomassa, insomma la situazione non si mette bene. Dovremmo avere in collegamento pronto? Pronto, ci senti? Sì, mi sento. Ah, ok, sì, allora dovremmo avere in collegamento un componente del comitato No Inceneritore, No Gassificatore, giusto? Giusto. Con cui insomma parleremo un po' di questa iniziativa, anche perché insomma poi entra a pieno titolo nel quadro insomma dell'indagine che si è aperta. Almeno un filone d'inchiesta riguarda proprio il post Malagrotta, la chiusura di Malagrotta e Monti dell'Ortaccio, insomma. E mi pare che come segnale e insomma anche come pubblicità in diretta all'iniziativa, quella della arresti di Cerroni e compagni, sia un insomma faccia sì che sia un passaggio importante l'assemblea del prossimo sabato. Se ci puoi spiegare insomma che situazione si sta vivendo lì nel quadrante di Malagrotta proprio nelle settimane passate, e poi insomma se c'è stato un cambio rispetto invece alla sensibilità dopo insomma la notizia di questi intervento della magistratura. Allora, sì, allora possiamo dire che quando qualche mese fa ormai c'è stato l'annuncio della cosiddetta chiusura di Malagrotta, poi sapevamo tutti benissimo che era una chiusura finta, perché chiudeva solo il conferimento, rimaneva attivo il TMB, quindi di fatto lavorava a pieno regime, non c'era nessun piano di uscita dalla Valle Galeria, ma in generale nuovo modello di smaltimento di rifiuti, eccetera eccetera. Quindi in qualche modo ci si aspettava una notizia come quella dell'inceneritore, della riapertura dell'inceneritore e dei progetti sul pianti a biomassa e biogas. Sicuramente la notizia della chiusura, della finta chiusura, aveva rilassato gli animi, dato speranze, eccetera eccetera. I comitati sin da subito avevano messo in allarme rispetto alla possibilità che questa chiusura fosse essere finta, e ne abbiamo avuto l'ennesima conferma. Per quanto poi riguarda tutto il filone delle indagini che ha fatto l'arresto di Cerroni e non solo, che riguarda la Valle Galeria, diciamo sono cose che è quasi banale dire che tutti si sapevano, nel senso adesso si legge sui giornali, però a vederlo là era impressionante. Quando sui giornali si legge e si dice che addirittura taroccavano con Photoshop le foto delle autorizzazioni, che sembrano dei folklore, cioè è vero, noi siamo provati per mesi e mesi, ormai più di un anno in realtà, e l'autorizzazione su Monti d'Ortaccio è tuttora ancora valida e attiva. Autorizzazioni appunto per aprire, ma un esempio fra tanti, la discarica a Monti d'Ortaccio, che sosteneva che lì non ci fosse nessun problema con l'acqua, nessun lago. E poi andai a vedere le persone, c'era un lago enorme, grosso, era al centro della strada profonda un 15 metri. Sì, insomma, ricordiamo che l'azienda lì, nel caso la Colari, si giustificava dicendo che quella era acqua che si era accumulata con le piogge, quando insomma erano tre mesi che non pioveva perché era piena estate. Insomma, questa divertente parentesi di alcune estati fa. Addirittura c'è chi si andò a fare la foto davanti al lago con le fotocopie dell'autorizzazione, che diceva che il lago lì non c'era, no, a parte queste note di colore. E appena arrivata la notizia, cioè, da subito dalla chiusura si era deciso comunque di portare avanti, uno perché si era convinto che la storia non finiva là, due perché il problema non è togliere la discarica Valle Galeria, il problema è cambiare in generale il modello di rifiuti. Quando è arrivata questa notizia dei nuovi impianti, della rettificazione del vecchio impianto alla costruzione dei nuovi, abbiamo accelerato nel creare mobilitazione, e il primo passaggio che andremo a fare, a parte l'aver già prodotto dei documenti, dei volantini, degli appelli, insomma materiale informativo, il primo passo che andremo a fare è quello di costruire per questo sabato 18 alle 4 del pomeriggio una grande assemblea popolare per riprendere la lotta, far ripartire le mobilitazioni nella Valle Galeria contro i nuovi impianti e contro in generale tutta l'incenerimento e la gestione attuale del modello rifiuti. Questa assemblea è molto importante per noi, tanto per ripartire quanto per ribadire l'assoluta necessità di un modello di mobilitazione, un modello democratico, di un modello orizzontale, di un modello appunto fatto di comitati popolari e di assemblee pubbliche che insieme discutono e prendono le decisioni, anche per in qualche modo isolare il più possibile tutta quella parte più politicante e a volte addirittura fascista o fascistoide che intorno a questi argomenti in quel territorio in particolare ci mangia tanto, ci costruisce carriere politiche e allo stesso tempo frena in non poco le mobilitazioni e le lotte. Forse anche uno dei motivi per cui poi proprio da quel quadrante appunto si è constatata purtroppo una debolezza rispetto a certi soprusi che sono stati commessi per decine di anni, però insomma sì, sicuramente quel territorio subisce una combinazione di tessuto sociale assolutamente disgregato, azione congiunta da un lato del PD che ha in questi anni venduto l'inceneritore come la soluzione di tutti i mali in quel territorio e di questi elementi di disturbo che non fanno altro che assolvere il loro ruolo di disturbo e di freno. Beh, alla faccia del PD, adesso la discarica è formalmente chiusa e l'inceneritore è formalmente fermo, quindi probabilmente situazione ambientale migliore per il momento non si può auspicare. Forse non sono gli unici problemi, però insomma sono i principali. Allora, ricordiamo l'appuntamento e ti ringraziamo per... Allora, l'appuntamento è per l'Assemblea Popolare è alle 4 di Casal Lombroso, il vicolo di Casal Lombroso 129, presso l'Istituto Magarotto, è una scuola, l'Istituto Tecnico Magarotto, l'Istituto Professionale Magarotto è una scuola. Ovviamente invitiamo chiunque sia interessato che possa partecipare, anche perché ci sembra molto importante ribadire che per quanto questa è una lotta che ha e vuole avere una forte base nel territorio, è una lotta che riguarda la discarica del inceneritore di Roma, di tutta Roma, dove va a finire la roba di tutta Roma, quindi non è certo un problema di due o tre quartieri, è un problema decisamente esteso a tutta la città. E hai fatto benissimo a ricordarlo e a ricordare l'appuntamento. Insomma, noi ti ringraziamo e ci vediamo sabato per questa assemblea pubblica nella zona di Malagrotta. Va bene, grazie a tutti e a tutte. Ciao. Ciao. E insomma, dopo questa corrispondenza, un altro po' di musica e torniamo poi in onda con un resoconto proprio sul decreto Salva Ilva Terra dei Fuochi. One love, yo. Yeah, that's right, he's got game. PE, 1998. If man is the father of the sun, is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. Uh-huh. My wandering got my ass wondering. With crisis and all this crisis, hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year, all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O's. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Ray scared of his shadow, doesn't matter. Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still 1,001 ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent, the corporate presidents. One out of 1 million residents, be a dissident who ain't kissing it. The politics of chains and whips, got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O is here. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? E torniamo in onda velocemente, dato che il tempo a nostra disposizione sta finendo, per le ultime notizie. Parliamo, dopo questo approfondimento che abbiamo fatto sull'inchiesta che riguarda i rifiuti del Lazio, torniamo invece nella terra dei fuochi, all'Ilva. Infatti in questi giorni è in discussione, diciamo in conversione a legge, il decreto che sulla terra dei fuochi, che era stato approvato il 10 dicembre, di cui avevamo già parlato. Al suo interno infatti sono state inserite anche degli elementi sull'Ilva di Taranto, quindi arriviamo al terzo decreto salva Ilva di questi ultimi 2 anni, e la sua approvazione alla Camera avverrà domani. E, allora, rispetto al decreto originario sulla terra dei fuochi, gli elementi che riguardano l'Ilva sono soprattutto il reperimento delle risorse per l'applicazione dell'AIA. Infatti ricordiamo che il passato decreto sull'Ilva, quello del 4 giugno 2013, aveva stabilito determinati tempi per l'approvazione per la messa in pratica della nuova autorizzazione integrata ambientale, e quindi cambiamenti interni allo stabilimento stesso. E a presiedere questi lavori erano stati nominati come commissario Bondi e come subcommissario Ronchi. Poi nel corso di questi mesi avevamo visto come entrambi i commissari si erano dimostrati molto preoccupati, dal momento che i tempi per l'applicazione di queste trasformazioni sembravano troppo brevi rispetto alle necessità, nonché anche i soldi troppo pochi. E quindi all'interno, il punto principale di questo decreto sarà il tentativo di reperire le risorse per l'applicazione dell'AIA attraverso una ricapitalizzazione dell'azienda ad opera dei Riva. Diciamo, a noi sembra molto strano che questo possa avvenire, anche perché i Riva, nel corso di tutta la storia del loro possesso di questa azienda, hanno proprio puntato sul non investire nella riabilitazione dei macchinari e nella conversione dell'intero impianto in una versione più green, più verde, ma piuttosto far passare i tempi dell'ammortamento degli impianti e fare più soldi possibile e poi lasciare la città di Taranto. E quindi ci sembra molto strano che lo Stato sia in grado, con la sua classica mancanza di autorità nei confronti delle imprese, di chiedere degli imprenditori di spendere dei soldi per un impianto che sta morendo. In generale, secondo Bondi, che tra l'altro l'8 gennaio ha già fatto una riunione con varie banche proprio per parlare di questa possibilità, e quindi probabilmente anche per valutare i possibili prestiti di queste banche, i soldi necessari perché l'Ilva venga riconvertita sono almeno 3 miliardi, e secondo Ronchi il capitale che verrà chiesto ai Riva sarà di 1,2 o 1,4 miliardi. Tra l'altro, all'interno del decreto, altri emendamenti di questi 400 presenti al suo interno, molto favolistici, sono il possibile stop dell'IMU per i cittadini di Taranto che subiscono l'inquinamento, oppure il possibile reperimento di somme per l'AIA dal Fondo Strategico Italiano SPA, che verrebbe compensato con quote societarie dell'Ilva stessa. Vedremo se questo decreto verrà convertito in legge. Nel frattempo sicuramente se ne discuterà molto, e il tempo d'approvazione arriverà massimo al 10 febbraio, quindi i tempi sono molto brevi. Per il resto, diciamo, ricordiamo che notizie di queste settimane vari elementi, insomma, possiamo vedere come in realtà l'impresa dell'acciaio in Italia stia morendo, e infatti altri problemi ci sono, per esempio a Piombino, dove i Lucchini già negli anni hanno avuto una drastica riduzione della produzione. In particolare quest'anno l'impianto produce 2300 tonnellate al giorno, quando ne potrebbe produrre 6000, e è in discussione all'interno di questa azienda una possibile accordata con cui verranno venduti dei pezzi dell'azienda stessa. Così come a Servola, vicino Trieste, i Lucchini vuole vendere l'impianto. E infine a Genova, notizia di questi giorni, c'è il Secolo XIX, ne ha parlato il 6 gennaio, pare che la storia dell'inquinamento subito dal quartiere di Cornigliano lì vicino è arrivato ad essere giudicato della quota di 20 milioni di euro, bonifiche che non verranno pagate dagli inquinatori, nonostante il principio comunitario che stabilirebbe proprio questo. E insomma, quel decreto salva Ilva e Terra dei Fuochi, ci interessa seguire il percorso, anche perché insomma si parla in maniera, insomma, si comincia a parlare del sistema delle bonifiche, che da qui ai prossimi anni sicuramente tornerà in auge, vista la quantità di siti contaminati e il possibile business da trarne fuori. E quindi insomma monitoriamo questa legge che insomma potrebbe aprire scenari se non peggiori di quelli che invece cerca di tamponare. Abbiamo insomma fatto una lunga parentesi quest'oggi sulla questione dei rifiuti. Chiudiamo con una notizia che riguarda gli impianti a biogas e della frazione digestata, di cui tanto dibattiamo da questi microfoni, perché insomma anche di questo sicuramente nei prossimi mesi si tornerà a parlare, perché è una delle tecnologie su cui la Regione Lazio vuole puntare di più proprio per i prossimi anni. E proprio il digestato è motivo di polemica, perché viene spacciato in molti luoghi come compost di qualità, però insomma c'ha delle conseguenze che noi abbiamo raccontato, che sono quella di contaminare i campi. E infatti diciamo, arrivano, diciamo, buone notizie dall'Europa una volta tanto, ovvero diciamo il commissario dell'Unione Europea all'ambiente, rispondendo a un'interrogazione parlamentare fatta dal deputato del PD sugli effetti del digestato, ha affermato che appunto il digestato, che è il prodotto quello che diciamo esce fuori dagli impianti a biogas, ecco, deve essere considerato come un rifiuto e quindi rientra appunto nell'ambito dell'applicazione della normativa dei rifiuti e non può essere, diciamo, utilizzato con la facilità con cui è stato usato fino adesso in Italia come concime. Tant'è infatti l'interrogazione del deputato del PD è stata fatta a seguito proprio di un'intossicazione per un caso di botulismo a Treba Seleghe, di cui avevamo anche parlato, diciamo, l'anno scorso. E vabbè, comunque non è questo l'unico caso di inquinamento da parte del digestato. C'è stato anche il caso dei funghi sempre in Emilia Romagna, e appunto sembra che la comunità europea stia prendendo dei provvedimenti per appunto farlo rientrare all'interno di una regolamentazione nell'ambito dei rifiuti. E quindi insomma...